ma nessuno è lì che ascolta. La musica consola, oggi suona distorta. Sono quei momenti in cui menti pure a te stesso, dicendoti che in fondo va bene per te lo stesso. Ma qui non cambia nulla, si vive dentro un metro. Per ogni passo avanti ce ne sono quattro indietro. Vivo in una sfera, un mondo immaginario, una commedia sulla quale non cala mai il sipario. Così io mi difendo da quello che c'ho attorno, le paure e i rancori che ritrovi ogni giorno. Sono lettere mai scritte pur leggibili, sicurezze che col tempo risultano fragili. Sono pensieri che ti prendono di notte, con i quali per dormire sai che devi farci a botte. Ma sai che tutto ciò rispecchia ciò che sei, e per sentirmi apprezzato non sai cosa da lei. Non sai cosa da lei. Rapporto con i miei, vorrei fare un disco e andare in hit parade. Vorrei un lavoro che sia una passione, ma passioni non ne ho. E a volte mi chiedo come sarei messo, non avessi avuto il rap. Cosa sarei adesso, non avessi avuto il rap. È ormai da 9 anni che sto dando tutto al rap. E a volte odio me stesso perché amo troppo il rap. Ho visto l'amicizia trasformarsi in odio, fratelli accoltellarsi per salire sopra un podio. Ho visto l'amicizia diventare amore puro, col tempo migliorarsi e dimostrarsi duraturo. Ho dato per scontato delle cose che ho perduto, a qualcuno ho dato e non lo ha mai riconosciuto. Tacchi che pretendi, neanche i tuoi sanno chi sei, ma per sentirmi apprezzato non sai cosa darei. Certe ore, c'è un calore raro che danno poche persone. Quando lei ti lascia ti sforzi per detestarla, esci per disfarti e riuscire a dimenticarla. Butti i suoi regali, dai fuoco ad una foto, ma il cassetto dei ricordi non rimarrà mai vuoto. Vivo in questo tempo, stando sopra il tempo, non sto al passo coi tempi. A volte muovo passi a stento, a volte un progetto corrisponde a un'illusione, ma a volte un'illusione è ciò che dà alla vita un senso. Ognuno un obiettivo, nessuna direzione. A volte una piccolezza può lasciarti un vuoto immenso. Vorresti sparire, ombre nella testa, quando ti senti solo e qualche amico non basta. È da un po' che tu gli specchi li detesti, e che per sentirti apprezzato non sai cosa daresti. Non sai cosa.